Perfetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Oggi ci viene proposto di aprire tutto, però quegli stessi che oggi ci dicono aprite tutto, che non so cosa voglia dire in particolare, ieri ci dicevano chiudete tutto. C'è stato proposto anche di chiudere e di sospendere il trattato di Schengen. Abbiamo cercato di spiegare che chiudere i confini, perché questo significava chiudere tutto, avrebbe procurato alla nostra nazione un danno irreparabile, irreversibile, economico. Sarebbe stata una soluzione peraltro non sostenibile, non praticabile. Così il presidente del Consiglio Conte, care ascoltatrici, cari ascoltatori, ha parlato in conferenza stampa, tra l'altro alla fine del vertice italo-francese, quindi col presidente Macron, a proposito delle tante polemiche che continuano a agitare il dibattito politico italiano anche sul coronavirus, quindi non stiamo parlando di prescrizione, di intercettazione, anzi è passata la legge eccetera, ma si parla del coronavirus, di chi prima diceva dovete chiudere tutto, poi invece critica perché chiudiamo tutto, dice Conte, e oggi addirittura si parla di ipotesi di un di governo di transizione, di unità nazionale eccetera eccetera. Insomma, quindi ne parleremo del coronavirus da un punto di vista politico, da un punto di vista delle relazioni e dei atteggiamenti che hanno nei nostri confronti soprattutto i principali partner europei, che sono per esempio la Francia e la Germania. Sapete anche che tanti paesi in giro per il mondo e anche in Europa stanno chiudendo i muri nei confronti, chiudendo le porte nei confronti degli italiani che vogliono viaggiare come ha sempre fatto liberamente per il mondo. E poi ne parleremo da un punto di vista medico-scientifico con il professor Giuseppe Ippolito dello Spallanzani di Roma, grande eccellenza. Per i vostri commenti, pagina Facebook di Effetto Notte, come sempre lì li potete scrivere comodamente oppure inviateli via SMS e WhatsApp al 349-238-6666. Per le affermazioni più rilevanti, per le dichiarazioni più importanti durante la diretta c'è il Twitter di Effetto Notte, altrimenti durante il giorno per le anticipazioni Roby con la Y, lineetta bassa, Giordano. Quindi tantissime cose, lasciate le cinture, si parte. Coronavirus isolato il ceppo italiano, i guariti sono in aumento, prove di ripartenza, Milano riapre il Duomo, il TAR riapre le scuole nelle Marche, male i mercati, Milano brucia 14 miliardi. Vertice Conte Macron a Napoli, non chiuderemo le frontiere, assicura il presidente francese, mentre Israele nega l'ingresso a chi arriva dall'Italia. La politica italiana, Salvini ricevuto da Mattarella, ipotizza un governo di transizione, Conte replica, il governo c'è ed è già unito. Arseno Mittal, il sindaco di Taranto, intima all'azienda, via le emissioni inquinanti in 30 giorni o stop all'attività. Calcio per l'Europa League maschile, la Roma contro il Ghent, finisce pari 1-1 la partita, adesso in campo a San Siro, Inter, Ludogorets. Partiamo quindi, come sempre, da un bel po' di tempo, dagli sviluppi legati all'epidemia di coronavirus. Il bollettino della Protezione Civile sul coronavirus indica 650 contagiati, 17 morti, e tutti con malattie pregresse, e 45 guariti. Lo ha detto oggi il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli. Intanto il ministro degli Esteri Di Maio ha sottolineato, ha detto che in Italia è coinvolto dall'epidemia del coronavirus lo 0,1% dei comuni. Le persone in quarantena sono lo 0,089% della popolazione totale. Il territorio italiano in isolamento è lo 0,01%. Lo ha detto appunto sottolineando queste cifre, dicendo che tutti i pazienti dello Spallanzani sono guariti, e poi ha espresso preoccupazione per le tante notizie errate che girano all'estero e che stanno danneggiando l'economia e la reputazione della nostra comunità scientifica, che sta affrontando in maniera brillante la situazione. Sono numeri che riguardano lo 0,089% dei comuni italiani. Stiamo parlando di aree delimitate. Veramente importante non partecipare a questa infodemia da disinformazione, come la chiamiamo noi, che farà più danni dello stesso rischio di epidemia, perché abbiamo veramente la percezione nel mondo di un'Italia che in questo momento è in tutto il territorio nazionale colpita. Non è vero, e anche dove ci sono singoli casi sono stati isolati, perché venivano dai focolai che sono lo 0,089 dei comuni interessati. Quindi aiutateci a diffondere le informazioni per quello che sono. e cerchiamo di farlo. Con l'impennata di 500 nuovi casi riportati oggi, la Corea del Sud supera la Cina, che ne ha annunciati invece 433. Le infezioni sudcoreane sono salite a 1766, come ha riferito il centro coreano per il controllo e la prevenzione delle malattie, con i morti complessivi saliti oggi a quota 13. Ritornando in Italia, il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche, con decreto urgente del suo presidente, ha sospeso in via cautelare l'ordinanza con cui la Regione Marche aveva disposto la chiusura di scuole, musei e inibito tutte le manifestazioni pubbliche di qualsiasi natura fino alle ore 24 dal 4 marzo 2020 al fine di contrastare la diffusione del coronavirus. Però il TAR, insomma, ha sospeso questa via cautelare. Governo al lavoro sulle misure economiche per il settore produttivo, messo in crisi non solo nelle zone rosse. I mercati tuttavia oggi scontano l'effetto coronavirus. Male le piazze europee, con Milano che ha bruciato 14 miliardi. Dopo i primi giorni di emergenza, ora è necessario tornare rapidamente alla normalità e far ripartire le attività bloccate. A lanciare l'appello a governo e istituzioni sono imprese, sindacati e banche, che chiedono di lavorare insieme per superare il momento critico innescato dall'emergenza coronavirus. Il governo prova a lanciare un messaggio rassicurante. Sono addirittura d'arrivo due decreti per aiutare il sistema produttivo, dice il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri. Due provvedimenti con misure che sosterranno i territori e i settori più colpiti e daranno una spinta all'economia, anche se al momento, spiega Gualtieri a 24 Mattino, non è ancora possibile fare una stima dell'impatto coronavirus su economia e crescita. Per avere una stima bisognerebbe sapere qual è l'evoluzione del virus e se, come ne auspichiamo, le misure di contenimento saranno efficaci e quanto tempo ci vorrà per debellarlo. Queste sono cose che nessuno oggi ha. Il primo decreto sarà varato in settimana, puntualizza Gualtieri. Fra le varie misure in arrivo per la zona rossa ci sono la sospensione dei contributi previdenziali e lo stop ai versamenti per la rottamazione delle cartelle. Ci sarà anche un aiuto alla liquidità delle piccole e medie imprese italiane. Le borse europee intanto continuano a muoversi con nervosismo, macinando forti perdite. Ma la situazione, dice la presidente della BCE, Christine Lagarde, non richiede una risposta da parte di Francoforte. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E arriva tra l'altro l'appello del mondo dello spettacolo in ginocchio per il coronavirus. Un tavolo per le associazioni dello spettacolo a confronto con il ministro Dario Franceschini. I numeri sono chiari: 400 spettacoli cancellati, una perdita economica da 10 milioni di euro, come comunica l'Associazione Generale Italiana dello Spettacolo su dati SIAE. Assomusica ha chiesto lo stato di crisi per fronteggiare le conseguenze delle ordinanze emanate per combattere il coronavirus. Rinviati in questi giorni concerti o interi tour. Guai anche per il cinema. Lunedì, con le sale di alcune regioni chiuse, il calo è stato del 65% rispetto allo stesso giorno del 2019. Martedì è stato del 70%. E molte uscite della settimana sono state rinviate. Difficoltà per i teatri, con la Scala che chiude per un corista positivo al virus, ma per fortuna è in via di guarigione. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Intanto anche a Milano si cerca un po' di ripartire, ed è stato deciso di aprire il Duomo, anche se in modo contingentato per i turisti, e si va verso forse la riapertura delle scuole, si deciderà in questo fine settimana. Quanto fatto dall'Italia trova il plauso dell'Europa, ma all'estero sono diversi i paesi che chiudono le porte a chi arriva dal nostro paese. Dopo la visita a Roma, la commissaria europea alla salute Kyriakides si congratula con l'Italia per l'immediata e risoluta azione per contenere l'epidemia, dice. Ma nel mondo scattano un po' ovunque misure anti-italiani o anti-provenienti dall'Italia. Israele ha sospeso i voli e vietato l'accesso ai nostri connazionali. L'unica buona notizia è arrivata dal Messico, dove la nave italiana MSC Meraviglia ha finalmente ricevuto via libera all'attracco, dopo la conferma che a bordo non ci sono casi di coronavirus. Isolamento a prescindere dalle condizioni di salute è previsto per chi proviene da Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna alle Mauritius, protagoniste del primo clamoroso respingimento di turisti italiani. Il rilevamento della temperatura è la via scelta da India, Egitto, Montenegro, Lituania, Ucraina, Moldavia, Cipro, Repubblica Ceca. Nessuna particolare misura è invece stata varata per ora dai paesi geograficamente più vicini a noi: Austria, Slovenia, Svizzera, Croazia e Germania. Neanche la Francia ne prevede e insorge Marine Le Pen. Chiudiamo le frontiere, reclama la leader della destra. È un'epidemia fuori controllo. Laura Bettini, Radio 24 e Sole 24 Ore. E oggi c'è stato a Napoli il vertice tra Conte e Macron, vertice italo-francese. Italia e Francia convergono sull'opportunità di mantenere l'apertura delle frontiere. Questo hanno detto nella dichiarazione finale. Pace fatta quindi tra i due paesi dopo la grave crisi diplomatica di un anno fa, e soprattutto hanno deciso di avere questo nemico in comune, l'epidemia di coronavirus che si sta diffondendo appunto in Europa. In questo 35esimo vertice intergovernativo tra Italia e Francia hanno ribadito Conte e Macron l'importanza delle relazioni tra i due paesi, assicurato che le frontiere resteranno aperte. Siamo alla politica italiana. L'operato di Conte durante i primi giorni della crisi coronavirus non è piaciuto all'opposizione e a pezzi della maggioranza. Noi siamo un governo unito, lo siamo già, risposto però il Presidente del Consiglio circa la proposta di un governo di unità nazionale avanzata da Matteo Salvini. Il leader della Lega era stato ricevuto al Quirinale oggi dal Presidente Mattarella, ma a quanto si è appreso non sarebbe stato affrontato il tema politico, bensì la necessità di far ripartire l'Italia dopo l'emergenza coronavirus. La Corte Costituzionale intanto ha dichiarato inammissibili i ricorsi di Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia sulle modalità di approvazione del disegno di legge di bilancio per il 2020. Però torneremo poi nel corso di questa puntata sui vari temi politici, e da aggiungere, fra le altre cose, che le intercettazioni sono legge. La Camera ha approvato in via definitiva il decreto sulle intercettazioni, che appunto ora è legge. I voti a favore sono stati 249, 169 invece i no. Adesso invece parliamo dell'acciaieria ex Ilva. ArcelorMittal e Ilva hanno 30 giorni di tempo per scoprire cosa determina le emissioni inquinanti del siderurgico di Taranto e risolvere il problema. Lo stabilisce un'ordinanza del sindaco Rinaldo Melucci. Per il sindaco di Taranto, se le due società individueranno la provenienza delle emissioni ma non risolveranno il problema, entro 60 giorni dell'ordinanza dovranno sospendere e fermare l'attività di una serie di impianti. Analogo stop dovrà avvenire per tutto ciò che è funzionalmente connesso agli impianti madre. L'ordinanza del sindaco specifica cosa dovrà essere bloccato: altiforni, cokerie, agglomerazione e acciaierie. Prima di firmare il provvedimento, il sindaco lo ha anticipato al premier Giuseppe Conte, e intanto slitta a Milano la firma del nuovo accordo tra ArcelorMittal e Ilva, in programma il 28 febbraio, ma è solo un rinvio tecnico di qualche giorno per acquisire firme e pareri che mancano alla nuova intesa, tra cui quello del comitato di sorveglianza MISE. Domenico Palmiotti, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Taranto. L'estero, il governo britannico è pronto ad abbandonare il negoziato sulle relazioni future post-Brexit con l'Unione Europea anche a giugno, se entro quella data non emergeranno prospettive di un accordo condiviso. Alza drammaticamente l'asticella negoziale il governo di Boris Johnson quattro giorni prima dell'avvio ufficiale delle trattative sul partenariato commerciale post-Brexit. Parlando a Westminster, il ministro Gove ha annunciato che Londra cercherà di modellare la nuova intesa basandosi su quelle che Bruxelles ha già in essere con altri stati indipendenti. Di qui le linee rosse: via dal tavolo negoziale a giugno qualora entro quella data non esistesse ancora una bozza di accordo sufficientemente definita; no ad intese che impediscano al Parlamento britannico di avere il pieno controllo su leggi e vita politica; trattative sull'accesso alle acque del Regno Unito per i pescatori europei separate dai negoziati sui mercati; fine del periodo di transizione senza se e senza ma il 31 dicembre; infine adozione delle regole WTO per i rapporti commerciali con l'Unione Europea qualora i negoziati fallissero in estate. Più in generale il messaggio è chiaro: non sottostaremo ad alcun obbligo di allineamento con le leggi europee. La tempistica di Londra appare decisamente ottimista: accordo quadro entro giugno, chiusura a settembre, fine della transizione a dicembre. Bruxelles mantiene la calma. Prendiamo atto del mandato negoziale britannico, afferma il capo negoziatore Michel Barnier. Da lunedì iniziano i fuochi d'artificio. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Per chiudere lo sport, a partire dal nuoto, il TAS, il Tribunale Sportivo, assolve il campione Filippo Magnin di nuoto e annulla la squalifica a 4 anni per doping comminata all'ex campione azzurro di nuoto dagli organi di giustizia sportiva italiana. E poi invece per il calcio, per l'Europa League maschile, una partita già finita. Un'altra ora sta in corso a San Siro. Ci aggiorna il nostro Carlo Genta. Caro Carlo, ciao. Ciao Roberta, ciao. Allora, la partita è già finita, no? Sì, la Roma ha pareggiato 1-1 in Belgio, 1-0 per la Roma stessa all'andata, dunque pratica assolta. E l'Inter, per l'Inter, beh, prove tecniche di tristezza. Stadio vuoto, certo, porte chiuse. Per noti motivi, porte chiuse. La partita non è di quelle entusiasmanti, con il Ludogorets già battuto 2-0 in casa sua all'andata, 0-0 al 17esimo, ma sono tutte note di cronaca di costume quasi, non credo ci siano dubbi sulla qualificazione dell'Inter. Dubbi ci sono ancora invece sulle porte aperte o chiuse della partita che tutti stiamo aspettando, cioè Juventus-Inter di domenica sera 20:45. C'è ancora grande incertezza, il che è abbastanza paradossale. Vediamo se a fine trasmissione, Carlo, magari ci sarà qualche aggiornamento in più. Vediamo se stiamo tutti aspettando. Il provvedimento di chiusura dello stadio decade sabato. Il governo ha detto si gioca a porte chiuse, ma una comunicazione ufficiale della Lega ancora non c'è e dunque l'incertezza rimane. Ci saprai dire dopo allora con l'aggiornamento ancora sulla partita in corso e magari anche se arrivassero notizie su questo. Grazie intanto a Carlo Genta. Ciao Carlo, allora diciamo che adesso ci sono gli aggiornamenti per chi sta viaggiando, per i vostri messaggi pagina Facebook di Effetto Note oppure il 349-238-6666. C'è Lidia che dice ma ci si rende conto che abbiamo una classe politica che fa campagna elettorale sul coronavirus? Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Le notizie più importanti, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, come sempre le avete sentite nella sintesi iniziale, nella sintesi della giornata, Roberto Giordano sempre con voi a raccontarle, ad approfondire tra poco con gli ospiti alcuni dei temi in primo piano. Naturalmente torneremo sul coronavirus da un punto di vista delle relazioni internazionali, almeno con principali paesi europei, dal punto di vista politico e poi anche con il professor Giuseppe Ippolito dello Spallanzani di Roma per quanto riguarda l'aspetto medico-scientifico. Oggi poi vertice Conte-Macron a Napoli che hanno assicurato non chiuderemo le frontiere e riparte di nuovo la relazione più solida tra Italia e Francia. ArcelorMittal, avete sentito, il sindaco di Taranto intima l'azienda via le emissioni inquinanti in 30 giorni o stop all'attività. E per l'Europa League maschile la Roma con il Ghent ha pareggiato 1-1, ora in campo a San Siro Inter Ludogorets. Non dobbiamo avere paura, lo ripeto, nessuna sottovalutazione o facile ottimismo, ma noi insieme a tutti gli altri paesi abbiamo la forza e l'energia per affrontare questa emergenza. Già, insieme a tutti gli altri paesi, dice il ministro della Salute Speranza, però uno degli effetti collaterali dei tanti del coronavirus, che però rischia di diventare centrale perché è molto pesante, molto penalizzante, oltre che decisamente assurdo, è la chiusura nei confronti dell'Italia e degli italiani da vari paesi nel mondo, comprese diverse nazioni europee che cominciano a essere sospettose, che dicono in questi giorni se qualcuno viene dall'Italia bisogna metterlo in quarantena oppure bisogna evitare che entri. Insomma, con diciamo, un certo atteggiamento ostile, che chiudono appunto l'ingresso o fermano per un po', per esempio, i voli da e per l'Italia, come ha fatto la British Airways in Gran Bretagna. L'Unione Europea ribadisce la solidarietà nei confronti dell'Italia e l'avete sentito che anche la commissaria europea alla salute ha ringraziato le autorità italiane dicendo che hanno messo in pratica un'azione immediata e risoluta per ridurre l'impatto dei focolai. Oggi avete sentito, c'è stato il vertice italo-francese, il presidente Macron ha assicurato non chiuderemo le frontiere e lo ha ribadito questo dopo che la leader della destra radicale francese del Rassemblement National Marine Le Pen ha detto oggi la situazione in Italia è quella di un'epidemia fuori controllo, io avrei già chiuso le frontiere, ha detto la Le Pen, è sbagliato far venire gli italiani a Lione, sono andati ieri i tifosi della Juventus per assistere, dice, al match di Champions. Di Maio, oggi ministro degli esteri, ha risposto a Le Pen dicendo danneggia l'Italia, mentre dice invece di essere vicina a uno dei nostri partiti, sottintendendo la Lega, però appunto Macron ha detto il virus è una questione che riguarda tutti. E allora, che situazione c'è in Francia? Lo voglio chiedere a Danilo Ceccarelli del Sole 24 Ore. Danilo. Buonasera. Ciao, buonasera Danilo. A tutti. Allora, buonasera. Dalla Francia, Danilo, e innanzitutto com'è la situazione anche proprio da un punto di vista di numeri? Hai dei numeri? Sì, la situazione sta diventando più critica perché notizia di queste ultime ore il numero complessivo delle persone contagiate da coronavirus è salito da 18 a 38. Questo è stato annunciato nel tardo pomeriggio dal ministro della Salute Olivier Véran. Di questi 38, ricordo, di 12 sono guariti, 24 sono sempre ricoverati e 2 sono deceduti, hanno perso la vita. tra i ricoverati, tra l'altro, ci sono due in uno stato grave, versano in gravi condizioni. Ecco, diciamo anche la Francia ha la sua codogno, se così possiamo dire. Povera codogno, che insomma è assurda, diciamo, a simbolo. Però sì, una cosa, Danilo, senti, ma come agisce il governo? Perché in questi giorni si è ripetuto spesso, no, negli attacchi che ha subito il governo italiano, nelle misure preventive, eccetera, che noi abbiamo fatto in realtà un sacco di tamponi a tappeto anche a chi non aveva bisogno, per cui per forza poi si trova qualcuno che ha il coronavirus, anche se poi magari, diciamo, non esplode, può restare a casa, eccetera. Lì in Francia come si sono mosse le autorità, Danilo? Da un punto di vista organizzativo, le autorità sanitarie stanno mettendo in atto un dispositivo per cercare di coprire tutto il territorio effettuando controlli a tappeto. Alcuni giorni fa è stato annunciato che verranno adibiti, 70 ospedali verranno adibiti per effettuare i test sulla popolazione e soprattutto per accogliere eventuali casi di contagi. Poi c'è anche un aspetto politico, se vogliamo, in quanto oggi il primo ministro Edouard Philippe ha riunito tutti i rappresentanti dei principali partiti politici, appunto per fare il punto e per dare anche soprattutto un segnale di unità nazionale, che del resto possiamo dire è arrivato dalle opposizioni, che si sono mostrate solidali con il governo. Come dicevi anche tu da studio, l'unica voce fuori dal coro è quella, stata quella di Marine Le Pen, che ha criticato le incoerenze del governo nella gestione di questi casi. E invece, per chiudere, Danilo, la popolazione come sta reagendo in Francia? Ma c'è ovviamente molta paura, anche se per il momento non si può parlare di panico, non si può parlare di psicosi, non ci sono ancora, ecco, le scene che abbiamo visto nel nord Italia. C'è tanto timore, la situazione viene seguita ovviamente su tutti i principali media nazionali e si aspettano sempre gli annunci del governo per vedere se ci sono delle buone notizie, ecco. Grazie Danilo Ceccarelli della Francia, e allora buona continuazione. Grazie. Invece, per quanto riguarda la Germania, saluto la nostra Isabella Bufacchi, appunto dalla Germania. Ciao Isabella, adesso le 24 ore. Ciao, buonasera a tutti. Ti farei più o meno le stesse domande che a Danilo, nel senso, se tu hai dei numeri, diciamo così, delle cifre per il momento per quelli che sono i contagi, i casi in Germania, e anche le autorità come stanno procedendo in questo senso. Beh, rispetto ai numeri dell'Italia, quelli della Germania possono sembrare piccoli, perché qui si parla di una trentina di casi, si parla di 27, poi chiaramente se ne aggiunge sempre uno un po' all'ultimo momento, e quindi possono sembrare pochi. In realtà qui in Germania cos'è accaduto? Che hanno avuto un focolaio in Baviera qualche settimana fa, cioè alla fine se ne erano, direi, quasi dimenticati, perché c'è stato questo focolaio. Sono arrivati fino a 16 contagiati, poi però hanno messo in isolamento tutte le persone che potevano essere in qualche maniera coinvolte, e 250 in quarantena, e tutto si è fermato un po' lì. Quando invece poi adesso, proprio nelle ultime ore, ma pochi giorni, sono arrivati dei casi in altre tre Länder, la Renania settentrionale Vestfalia, Baden-Württemberg e Renania Palatinato. Sono quattro casi qui, due casi là, però tutto questo ha coinciso anche con il carnevale qui, e le sfilate di carnevale sono, non dico all'altezza magari di Viareggio, però sono molto sentite, quindi ci sono centinaia di persone in strada, e in due di questi contagi con persone, insomma, positive ai test, e hanno visto che poi sono andate queste sfilate, e in due casi ci sono 300 persone coinvolte. Quindi cos'è accaduto? Che con questa escalation hanno pensato che in realtà la situazione stesse sfuggendo di controllo, perché la cosa principale qui per la Germania è spezzare questa catena di contagi. Quindi anche qui sono andati alla ricerca dei pazienti zero, in un caso l'hanno trovato, in un altro caso no. Scusami Isabella, ma ecco, rispetto all'Italia, che cosa si dice dell'Italia lì in Germania? Per esempio oggi c'è stata una conferenza stampa del ministro della sanità Jens Spahn e lui ha fatto un po' il caso dell'Italia per dire non siamo come l'Italia, nel senso che non vogliamo arrivare al punto di isolare intere cittadine, perché per esempio anche qui hanno avuto un caso di una piccola cittadina di 41.000 abitanti a Heinsberg, dove una coppia, poi lei è un insegnante in un asilo nido dove ci sono 65 bambini, hanno chiuso le scuole, però in realtà il ministro ha detto noi non intendiamo al momento ricorrere a queste misure, cioè isolare intere cittadine. E per quanto cittadine. Riguarda italiani che venissero lì in Germania, qualcuno sta dicendo qualcosa, Isabella? O... Sì, poi c'è stato anche il ministro degli interni, Seehofer, che al momento ha parlato più che altro della compilazione di un modulo da parte non solo dell'Italia, sempre hanno parlato di Italia con Cina, Sud Corea, Giappone e Iran, quindi le zone del mondo più colpite, con gli italiani che sono stati magari a contatto con le zone più a rischio, che devono compilare un modulo, quindi non li bloccano, però quello che vogliono provare a fare, adesso poi vediamo, deve essere messo in atto, in aeroplani, hanno parlato di navi, di treni, vediamo cosa riusciranno a fare, però compilando questo modulo loro vogliono poter rintracciare gli italiani che se arrivano e poi vengono... hanno dei problemi respiratori o dei sintomi gravi, si sa subito dove sono andati, vogliono mettere in pista questa rete, però secondo me la Germania, che ha sempre un approccio un po' pragmatico, no? Parliamo sempre dell'approccio della Merkel, dei passi, anche in questo caso hanno detto attenzione, niente panico, la situazione è sotto controllo, il nostro sistema sanitario regge. E hanno fatto oggi un pacchetto di misure, perché chiedevi anche questo, hanno anche annunciato delle misure di sostegno alle piccole imprese che vengono colpite, però tenendosi, hanno detto, in equilibrio tra proteggere la salute e proteggere gli interessi economici. Chiaro, quello è l'equilibrio difficile che si sta cercando di raggiungere anche in Italia. Intanto grazie Isabella Bufacchi, Sole 24 Ore dalla Germania, grazie di questo aggiornamento. Ciao Isabella. Buonasera a tutti, ciao. Ciao. Invece, diciamo, questa è una situazione molto particolare dove gli atteggiamenti, ma anche le parole, hanno il loro bel peso, no? Una situazione così delicata. E oggi, insomma, diciamo, è apparsa un'agenzia con una dichiarazione del dirigente dell'unità operativa complessa di malattie infettive di Pescara, Giustino Parruti, che qualcuno, insomma, ha fatto sobbalzare, perché a proposito del fatto che non ci sia nessun focolaio in Abruzzo, ha detto resta una metastasi lombarda. Dottor Parruti, buonasera. Buonasera. Buonasera. Come mai ha usato questo termine? Ma io, guardi, l'ho usato in una modalità estremamente tecnica. Quando c'è un'infezione, per esempio un'infezione da stafilococco, in una parte del corpo, la stessa infezione si può localizzare, e la parola tecnica che noi usiamo dal greco è metastasi, in un'altra sede, è una localizzazione a distanza. Quindi la parola che ho usato molto sinteticamente, visto la brevità del tempo, era che non avevamo nessuna evidenza di una circolazione locale, ma ho sentito con molto piacere quello che diceva la corrispondente prima da Berlino, perché il metodo che noi stiamo usando è esattamente lo stesso. Noi abbiamo un enorme interscambio con la Lombardia. Non c'è una famiglia a Pescara che in Abruzzo che non abbia un figlio che sta nel Lombardo-Veneto, e il numero degli interessi, delle interconnessioni economiche, commerciali e relazionali è infinito qui. Quindi il metodo che abbiamo scelto non poteva essere che quello di fare una grande rete di tracciamento dei contatti, esattamente come ho sentito dire un attimo fa, e investigare tutti i casi che poi sviluppassero una manifestazione febbrile, anche sottile, che ci facesse pensare a una situazione del però, genere. Però ritornando al termine di prima, sì, dottor Parruti, sì, di solito si usa per i tumori, no? E quando la si usa in modo metaforico per sì, qualsiasi tema, si dà sempre un'accezione molto negativa, molto inquietante. Beh, no, non era assolutamente la mia intenzione. Quella mia era proprio una frase tecnica. Cioè dire che è una metafocalizzazione, cioè una localizzazione a distanza di un'infezione che parte dal nucleo precedente e ringraziando Dio non abbiamo nessuna evidenza che questa stia localizzandosi. E questo ci fa qua piacere, solo che magari qualcuno anche in Abruzzo, sentendo è una metastasi lombarda, può vederci a noi lombardi come magari, no? Assolutamente un pericolo, no, guardi, incombente. Mio figlio lavora, ecco, a Bergamo e vive a Milano e tutta... e noi siamo stati a Milano venerdì e sabato. Suo figlio ha dire... detto? Al figlio che lavora... che lavora a Bergamo, sì, a Milano, sì, sì, quindi tutti tranquilli, no? Anche in famiglia. Ah, assolutamente sì, mi dispiace la facilità con cui noi usiamo parole tecniche di natura cioè per le infezioni di natura greca, ma insomma non c'era nessuna accezione negativa, anzi la Lombardia è la mia seconda patria, quindi. Chiaro, questo ci fa piacere, un abbraccio allora all'Abruzzo, dottor Parruti. Grazie, grazie, grazie, e buon lavoro. Sforzo che stiamo facendo, salve. Grazie. Ci prendiamo qui a questo punto la solita pausa di riflessione e di respiro e voi continuate con i vostri commenti sulla pagina Facebook di Effetto Notte o al 349-238-6666. Si è staccata ancora qui la batteria del WhatsApp, si aspetto tutto, vabbè, tra poco cercherò di recuperare, non abbiate paura, Ratta con la Folgore tornerò. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte, vi devo avvertire, questo è un programma che dà dipendenza. Parola di Roberto Giordano, che tutte le sere vi accompagna dalle 21 alle 22 attraverso le notizie più importanti della giornata, con un quadro esauriente nella sintesi iniziale e poi gli approfondimenti insieme agli ospiti. Abbiamo parlato lungamente delle relazioni dell'Italia con i principali partner europei, che sono Francia e Germania, delle loro reazioni nei nostri confronti e anche di come si diffonde l'informazione e come viene attuata la prevenzione in questi giorni nei due paesi. Oggi è stato, tra l'altro, vi raccontavo anche del vertice italo-francese che ha rinsaldato i rapporti tra il nostro paese e la Francia, anche da un punto di vista proprio del lottare insieme contro l'epidemia di coronavirus, e Macron ha assicurato che le frontiere sono aperte, al contrario di quanto oggi chiedeva la leader della destra radicale francese Le Pen. E poi abbiamo sentito anche il dirigente dell'unità operativa complessa di malattie infettive di Pescara, Giustino Parruti, su questa affermazione un po' particolare della metastasi lombarda a proposito del focolaio che si è sviluppato in Lombardia relativamente al coronavirus. Quindi avete sentito le situazioni di queste reazioni dei partner europei. Tra poco ce ne occuperemo del coronavirus a proposito della polemica del dibattito politico italiano, con polemiche, attacchi reciproci. In mezzo però vorrei fare un po' di chiarezza con un grande luminare, uno dei principali protagonisti della lotta in prima linea al coronavirus dall'inizio, direi proprio, dell'epidemia, da quando si è saputo, che è il professor Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dell'Istituto Lazzaro Spallanzani di Roma, centro di grande eccellenza soprattutto per la virologia. Professor Ippolito, buonasera, un piacere ritrovarla. Buonasera. Allora, ho tantissime domande da farle, quindi le chiedo proprio uno sforzo di sintesi nelle risposte. Beh, intanto diamo un'informazione in servizio. Chi vuole sapere quante sono le persone positive lo trova oggi facilmente sul Sole 24 Ore, il Lab 24 che ha attivato una pagina specifica su questo. Quindi Lab 24, il Sole 24 Ore coronavirus, ci sono tutti gli aggiornamenti, certo, più dettagliati. Siamo che sempre uno sul pezzo, vedere. Mi fa piacere questo scambio. E questo bisogna dire che questa pagina permette ai cittadini di fare chiarezza con un aggiornamento due volte al giorno. Puntuale. E dà sia i numeri totali, i numeri per provincia, i numeri per comune e soprattutto dà informazione su quanti sono i tamponi che sono stati effettuati e quanti sono risultati positivi. Grazie, professore. Alle ore 18 di oggi erano stati effettuati 12.000 tamponi e risultavano positivi 650 campioni. Questo è il primo dato importante. Professor Ippolito, però da adesso in poi mi sembra di aver capito che questi tamponi non verranno fatti così a tappeto, anche perché forse questa trasparenza che abbiamo avuto e anche forse questa sollecitudine, diciamo, piuttosto consistente, poi ci ha fatti apparire agli altri paesi come quelli che hanno un'infinità di casi e loro invece si contano sulle dita di 2-3 mani. È vero, questo permetterà di avere i pazienti sintomatici a seconda dei sintomi che hanno, e ancora sulla pagina del Sole 24 Ore i lettori potranno trovare quanti sono i ricoverati con sintomi, quanti sono quelli in terapia intensiva e quanti sono quelli in isolamento domiciliare. Professore, però voglio dire, professore, lo Spallanzani, la notizia buona anche che ci dà è che tutti i pazienti che erano Spallanzani sono guariti, a partire dai primi casi in Italia, che era stata questa coppia di turisti cinesi che erano andati anche in terapia intensiva, si temeva per la loro vita, no? Per diverso tempo, invece sono guariti. Erano pazienti che arrivavano, ecco. Pazienti particolarmente gravi. Abbiamo avuto occasione di dire qualche sera fa, e la pagina oggi del Sole 24 Ore che ci dà un aggiornamento a tutti, perché noi dobbiamo pensare che i dati non bisogna solo produrli, bisogna anche mettere le persone in condizioni di leggerle, dice che alle 18 di oggi c'erano stati 17 morti, tutti i pazienti con altre patologie concomitanti, è vero. E così abbiamo risposto anche a diversi ascoltatori che continuano a chiedere: ma questi ottantenni, settantenni davvero sono morti per questioni pregresse e con causa il coronavirus? Con causa, e sono morti con una positività per coronavirus. Abbiamo, in Italia sono state già dimesse 45 persone, alle quali vanno aggiunti perché sono assolutamente guariti, e poi abbiamo la differenza che sono questi 588 che sono tra contagiati, e tra questi ci sono alcuni sintomatici. Professor Ippolito, in questi giorni dallo Spallanzani avete dichiarato che i vostri pazienti sono stati curati con un mix di farmaci, ho capito bene? Esattamente, sono stati curati prima con un farmaco originato per l'AIDS, secondo con un farmaco, una molecola estremamente piccola che è un antivirale. Per ora si tratta questo farmaco, quello che è più promettente, anche se è presto, non ci sono studi controllati e ancora non c'è una terapia per questa infezione. Però ho anche letto che, seppure il vaccino sia ancora piuttosto lontano, state valutando come Istituto Spallanzani una nuova piattaforma vaccinale. Che vuol dire, professor Ippolito? Vuol dire che siamo impegnati esattamente come altre persone, abbiamo avuto la fortuna di lavorarci per prima, abbiamo avuto l'opportunità di isolare il virus per primi, di fare studi rilevanti su questo argomento e di avviare, applicando a un programma europeo già 2 settimane fa, a programmi per lo sviluppo dei vaccini. Non so se saremo finanziati, ma sicuramente abbiamo iniziato 2 studi in questo ambito con altri finanziamenti per sviluppare piattaforme. Il segreto sarà avere delle piattaforme che ci rendono meno dipendenti dall'estero e che possono essere attivate in condizioni di emergenza. Il futuro sarà prepararsi per le prossime epidemie. Non bisogna arrivare impreparati, e prepararsi è sicuramente il sistema migliore. Professore, il fatto che al Sacco di Milano oggi abbiano isolato il ceppo italiano del coronavirus, voi però all'inizio di febbraio lo Spallanzani avevate isolato il coronavirus, qual è la differenza? Ma no, mi perdoni, il ceppo italiano, il coronavirus è un ceppo, un altro, perché è l'isolato da un soggetto italiano. Giocare sulle parole mi sembra povertà mentale. Va bene. Professore, invece, per quanto riguarda le misure prese in Italia per contenere il virus, sa quanta polemica c'è, no? Nel dibattito politico, chi attacca, chi dice hanno preso misure in ritardo, chi le hanno prese troppo debili, chi le hanno prese troppo forti. Lei come le giudica, professore? Beh, la diretta di ieri sera, le misure sono state proporzionali e tempestive, anzi, prima l'Italia è stata criticata per aver chiuso i voli con la Cina, poi la critica è stata non essere stata abbastanza dura. Io ritengo che nelle situazioni dell'epidemia sia sempre difficile fare le scelte, soprattutto quando mancano i dati, e penso che l'Italia abbia fatto una buona figura. Invece, per quanto riguarda il video del presidente della regione Lombardia di ieri, Fontana, che a un certo punto ha fatto questo video dicendo: guardate, siccome una mia stretta collaboratrice è risultata positiva al coronavirus, mi autoisolo per un po' e si è messo una mascherina, c'è stato un po' di critica da questo punto di vista. Con i criteri attuali, il presidente Fontana non doveva fare il test e la mascherina non ha motivo di essere portato. Probabilmente è stato un messaggio positivo verso i suoi cittadini, per dire: guardate, io stesso non vi sentire discriminati per quelli che sono stati isolati. Credo che sia più un messaggio positivo verso i 400 persone che in Lombardia risultano positive per il virus. Professore, prima c'era appunto il dirigente dell'unità operativa complessa di malattie infettive di Pescara, Giustino Parruti, che ho coinvolto, che ho chiamato, perché oggi aveva usato un termine che ha fatto sobbalzare un po' qualcuno, dicendo dall'Abruzzo non c'è nessun focolaio qui in Abruzzo, quella che è il caso di una cinquantenne della Bassa Brianza è una metastasi lombarda. È giusto usare quindi questo termine? Questi termini sono sempre brutti, sono brutti e non bisogna pensare metastasi lombarda. L'Italia è un grande paese ed è tutto unito, se uno pensa che esistono le metastasi è meglio lasciarle ai tumori. Diceva che era un termine tecnico che si usa anche per le infezioni. Non si usa assolutamente per dire che un caso secondario è una metastasi. Senta, invece per quanto riguarda, per esempio, non so, c'è il presidente della regione Sicilia Musumeci che ha detto: se i turisti arrivano dal nord sarebbe bene che non arrivassero, che aspettassero insomma tempi migliori. Sa che c'è... Il presidente Musumeci vuole perdere il turismo in Sicilia, che credo invece sia una quota importante. Se continuiamo a creare modelli di terrorismo psicologico, la ricchezza dell'Italia che è il turismo rischiamo di perderla. Già molti paesi hanno paura, noi abbiamo solo fatto più tamponi degli altri e abbiamo trovato più positivi. È vero, noi abbiamo una quota di persone che oggi sono in terapia intensiva, che non hanno, per esempio la Lombardia 41 pazienti in terapia intensiva, il Veneto 8 pazienti in terapia intensiva, l'Emilia Romagna 6 pazienti in terapia intensiva, gli altri sono a diverso livello di sintomi, però se noi continuiamo a correre dietro a queste cose, i numeri servono per dare un quadro. Se continuiamo a fare in questa maniera, ci sono regioni che oggi sono colpite, 41 pazienti in terapia intensiva in Lombardia ci fanno riflettere e ci fanno dire che l'Italia ha fatto bene a prendere le misure che ha preso. Perché pensi che c'è per esempio il presidente del presidio di Lodi di Assolombarda, Francesco Monteverdi, che ha detto per quanto riguarda i prodotti italiani all'estero, in Europa dice si sta diffondendo la psicosi per i prodotti italiani al punto che per alcuni alimenti che arrivano dall'Lodigiano si chiede una certificazione che la merce in questi casi confezionata negli anni scorsi sia esente dal coronavirus, per dire insomma delle assurdità. Però... Purtroppo i meccanismi della comunicazione, lei che ne è padrona lo sa bene, sono veramente difficili. Quando una notizia di questo tipo viene data, poi induce allarmismo. Io suggerirei al presidente di Assolombarda Lodi di queste cose, anche se vengono dette, è meglio non farle circolare perché diventano virali e rischiano di fare peggio del virus. Chiaro. Solo altre due domande. Previsioni. Secondo il dibattito tra alcuni scienziati è possibile che il coronavirus non sparisca e diventi endemico come l'influenza. Le sembra attendibile? Il coronavirus appartiene al virus del raffreddore della stessa famiglia, quindi potrebbe rimanere con noi e non andarsene. Piano piano faremo gli anticorpi e questo ci renderà più in grado di rispondere, anche se non sappiamo quanto gli anticorpi sono protettivi e come per il raffreddore ci potranno essere persone che se lo piglieranno più volte. Un'ultima cosa che io penso è che noi dobbiamo pensare che quando un virus arriva in una popolazione, pensiamo quando è arrivato il morbillo, quando sono arrivati gli altri virus, la popolazione era tutta suscettibile. Piano piano le persone sviluppano anticorpi e sviluppando anticorpi si riducono gli effetti indesiderati. Noi ci abituiamo perché tra noi e i virus c'è una competizione continua e non è detto, come dice Joshua Lambert, che era premio Nobel per la medicina, che ancora non è detto chi vincerà questa sfida. Speriamo noi. La vinca nuovo. Chiaro. Professore, per chiudere, non so se le fa piacere che in una scuola umbra, in un liceo classico di Città di Castello, hanno dato una versione in latino sul coronavirus. Visto che il coronavirus... Mi sembra una bella cosa. Coronavirus. perché la forma quindi viene anche in latino, certo. E poiché virus vel venenum, virus significa veleno e l'origine è quella, non bisogna inglesizzarlo perché in italiano si dice virus perché è un termine latino. Benissimo, grazie professor Giuseppe Ippolito, grazie mille, grazie dello Spallanzani, di direttore scientifico dell'Istituto Lazzaro Spallanzani di Roma. Direi che dobbiamo correre subito in viabilità. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Questa sfida si può vincere solo insieme. Non dovremo mai dimenticarlo nei prossimi giorni. Ma sì, insieme, anche se concedetemi il termine, questa insiemitudine, questa unità politicamente trasversale mi pare non pervenuta per quanto riguarda la politica italiana. Intanto saluto la nostra Betta Fiorito in diretta dai Palazzi Romani, cara Betta. Buonasera, buonasera radioascoltatori. E per confermarlo farei sentire vari passaggi, per esempio, ecco, soprattutto diciamo che in questi giorni il leader della Lega Matteo Salvini e poi anche il leader di Italia Viva, che però fa parte della maggioranza di governo, Renzi, insomma punzecchiano non poco, anzi diciamo che tirano anche delle bombe. E allora farei sentire un passaggio di Salvini che dice: con Conte l'Italia affonda. L'importante è non affondare. Con Conte l'Italia affonda. Noi siamo disponibili a remare sulla scialuppa di salvataggio per il tempo strettamente necessario a tornare a normalità democratica. E poi Salvini dice: il vero piano shock è questo. Questo governo può traghettare l'Italia fuori dall'emergenza? No. L'emergenza numero uno è quella economica. Quindi rilancio economico, taglio di tasse e burocrazia, investimento in grandi opere. A una crisi economica si risponde con uno shock economico di segno opposto. L'unico piano shock è mandare a casa Conte. Ecco, la premessa necessaria e non sufficiente per un piano di rilancio del Paese è che non ci sia più Conte a fare Presidente del Consiglio. Questo mi sembra evidente. Oggi tra l'altro Salvini è stato ricevuto da Mattarella, ha detto alla fine di questo incontro Salvini: Mattarella è un attento interlocutore. E poi ha detto: qualcuno usa il virus per salvare le poltrone. L'Italia è il paese più bello del mondo, veniteci se siete all'estero senza nessuna paura. Ecco, magari qualche altro paese europeo ha tutelato maggiormente l'interesse nazionale senza seminare panico, e questo serva di lezione a chi invece magari ha provato e sta ancora provando a usare il virus per salvare la poltrona. Ma Conte, Presidente del Consiglio, replica così: oggi ci viene proposto di aprire tutto, però quegli stessi che oggi ci dicono aprite tutto, che non so cosa voglia dire in particolare, ieri ci dicevano chiudete tutto. Ci è stato proposto anche di chiudere e di sospendere il trattato di Schengen. Abbiamo cercato di spiegare che chiudere i confini, perché questo significava chiudere tutto, avrebbe procurato alla nostra nazione un danno irreparabile, irreversibile, economico. Sarebbe stata una soluzione peraltro non sostenibile, non praticabile. Oggi ci viene detto il contrario. Ecco, bisogna avere, quando si affrontano queste emergenze, bisogna conservarsi lucidi, mantenere un senso di responsabilità, non avere nessuna arroganza, nessuna presunzione, ma basare sempre le decisioni, ripeto, sugli esperti, sul comitato tecnico-scientifico. Insomma, grande unità, grande condivisione anche nella lotta al coronavirus, ne è vero, Betta Fiorito? Ma diciamo allora che mi sembra che la grande condivisione all'interno della politica italiana non ci sia. C'è un Matteo Salvini che è andato su al Quirinale e ufficialmente non ha parlato di governo, però ha detto di un piano di come far ripartire l'Italia. Poi appena è sceso dal colle più alto, il Quirinale, appunto, ha cominciato subito a sparare a zero e a dire: ah, allora a questo punto abbiamo la possibilità di andare al voto non fra 2 mesi ma fra 8 mesi, forse calcolando il referendum sul taglio il numero di parlamentari, insomma, si è fatto un po' di calcoli, sicuramente prima della legge di bilancio, che sarà un altro scoglio non indifferente visto poi la frenata dell'economia anche dovuta al coronavirus. E quindi la Lega può accompagnare il paese al voto. Lui si è autocandidato per un governo di unità nazionale. Quindi chi è che usa il virus per le poltrone? Questo Salvini lo accusa il governo. Il governo a sua volta dice: il governo c'è già, diciamo, non c'è bisogno di un governo di unità nazionale per andare alle elezioni. Sì, insomma, la risposta sia di Conte sia di Zingaretti, e quindi da parte di tutte quante le componenti del governo, tranne Italia Viva, è stato quello: il governo c'è già. Anche Crimi l'ha detto, Renzi, capo politico del Movimento 5 Stelle. Si vedeva Bettini, Zingaretti, eccetera. Matteo Renzi che cosa ha detto? Ah no, però dopo l'emergenza bisogna fare il punto sull'esecutivo, perché poi c'è questo famoso la verifica che Conte dovrebbe fare con Matteo Renzi, da cui Matteo Renzi si è sganciato appena c'è stata l'emergenza virus. Abbiamo detto rimandiamo tutto. Insomma, questa emergenza virus viene presa dalla politica un po' per tirare acqua al proprio mulino, diciamolo, no? Anche c'è stata una parte dell'intervento di Salvini che abbiamo sentito, che era una parte che stava su Facebook, lui con il suo telefonino che va in giro per l'aeroporto, fa vedere che l'aeroporto è deserto e bisogna venire in Italia, non c'è pericolo, è stato Conte che ha alimentato questo pericolo. Insomma, mi sembra che queste polemiche siano abbastanza inutili. In questo momento c'è sicuramente una volontà, però, da parte di qualche compagine politica, e a questo fanno capo i due Mattei, cioè Matteo Renzi e Matteo Salvini, di voler un nuovo governo senza Giuseppe Conte. Questo chiaro. Mi sembra che sia che coalizza un po' l'odio o comunque l'avversità di questi due personaggi. Però mi sembra che in questo momento Conte sia abbastanza in sella, almeno per il momento, perché finché il PD non decide di sganciare e di staccare la spina, e il Movimento 5 Stelle uguale, è inutile che poi Salvini faccia queste belle proposte, le bordate. Per il momento quindi possibilmente mettete le polemiche in quarantena. Grazie Betta Fiorito. Sì, non l'Italia in quarantena, ricordiamo, ma le polemiche, sì. Chiaro, siamo d'accordo. Grazie Betta, ciao, a ben presto cara Betta Fiorito. E adesso invece con il nostro Carlo Genta ritorniamo sulla partita in corso di Europa League maschile con la prego c'è il nostro Carlo, eccolo qui, sì, eccomi, sì sì, Inter Ludogorets, sì. Ritorno di questa sedicesima di Europa League. L'Inter sta vincendo 2-1, qualificazione in cassaforte, dopo essere passati in svantaggio l'Inter ha ribaltato il punteggio con Biraghi e Lukaku, gol molto fortunoso, gol lonzo per dirla con quelli di mai dire gol. Comunque 2-1 all'intervallo, all'andata l'Inter ha vinto 2-0 e niente, aspettiamo il secondo tempo, ma è un Inter che va guardato in controluce rispetto alla partita di domenica, che sarà la partita chiave del campionato italiano. Carlo, è arrivato proprio adesso, scusami, la conferma, sì. La conferma in questo momento l'agenzia Juventus e Inter, le altre partite di questo fine settimana programmate a porte chiuse per l'emergenza coronavirus, si disputeranno senza pubblico. La conferma sta per arrivare con una presa di posizione ufficiale della Lega di Calcio di Serie A, un'agenzia del Sì, che è quello che mancava, perché nel precedente collegamento avevamo detto l'incertezza che c'era. Perché il provvedimento di chiusura per quanto riguarda la regione Piemonte riguardava arrivava fino a sabato, la partita è domenica sera, non c'era comunicazione ufficiale della Lega, quindi eravamo in attesa di decisioni. Bene, se ora sapremo che si giocherà a porte chiuse, si apriranno molte altre prospettive, non solo quelle relative all'eventuale rimborso dei biglietti, ma anche quelle relative ad una diretta televisiva in chiaro di cui si era parlato nei giorni scorsi e che deve essere però decisa a livello governativo, perché la normativa sui diritti televisivi non prevede la possibilità di trasmissione in chiaro. Tutti temi che si svilupperanno nelle prossime ore, ma di grande importanza e che determinano ovviamente grande attenzione. Certo, e di cui tu parlerai domani a tutti i convocati alle 14 come sempre, appuntamento con Carlo Genta. Ciao caro Carlo! Ciao Carlo, noi ci sentiamo alle 22, brevemente.